Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Problemi condominiali, chi non ne ha avuti, ma piccoli o grandi? Di questo parliamo insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla notizia come spunto: a Padova il neosindaco Massimo Bitonci ha istituito o ha annunciato la istituzione della figura del vigile di condominio, una persona, delle persone che dovrebbero controllare e dirimere appunto le questioni che sorgono tra condomini, che sono, come sappiamo, chi vive in condominio lo sa, di diversa natura. Anche voi vi siete accorti come associazione che questi problemi probabilmente non smetteranno mai. Guarda Mirko, noi poco più di un anno fa abbiamo deciso di istituire uno sportello proprio denominato Sfratti e Condominio per raccogliere un pochino tutte quelle che sono le problematiche relative a quest'ambito, e proprio in virtù di questa iniziativa promossa dal neosindaco abbiamo verificato un pochino quante attività sono state svolte nell'ultimo anno e abbiamo visto che sostanzialmente siamo arrivati a circa 200 casi di persone che, proprio vivendo in un ambito condominiale in cui c'è un amministratore condominiale, per diverse ragioni si è rivolta all'adico. Certo è che sono problematiche che riguardano un po' varie nature di problemi, soprattutto anche, ormai bisogna ragionare anche in vari ambiti culturali, perché ormai in condominio siamo diventando un po' una società multiculturale, e certamente sono dati che nei prossimi anni non potranno far altro che continuare a crescere. Quindi questioni di comportamento, di diversità di abitudini, magari anche di morosità, lì credo che non c'entri la nazionalità, se uno non paga è perché non ha i soldi o perché non vuole pagare. Guarda, per quanto riguarda i problemi, uno specifico legato alla morosità, è vero quello che dici, ma ci sono anche dei casi abbastanza di persone furbette che ormai stanno approfittando un po' anche della situazione in generale per non pagare. Certamente comunque, e per fortuna sono una piccola minoranza, ma riguardano comunque molti casi di persone che veramente per problemi di perdita di lavoro o di problemi anche cause di forza maggiore sopraggiunti, per cui anche di salute per esempio, non hanno i soldi per pagare l'affitto perché proprio non ce la fanno più e vai a fine mese, magari in quel periodo là della loro vita si stanno dedicando alle cure mediche. Però i problemi più grossi, più comuni normalmente sono legati normalmente ai pagamenti e soprattutto all'utilizzo degli spazi comuni e dell'ascensore. Sono problemi che normalmente causano forti litigi, perché l'utilizzo di spazi comuni normalmente, anche se regolamentato, si cerca un pochino di fare sempre più furbetti, oppure è anche vero che molte volte si sopporta meno rispetto a una volta a quelli che sono poi i rumori e l'utilizzo di attrezzature comuni che causa queste problematiche qua, che poi alla fine diventano solo delle scintille per far degenerare magari una convivenza che si stava già trascinando da parecchio tempo. Comunque ricordiamo che il condominio è tutti gli effetti anche della legge una piccola società, questa viene regolamentata con un amministratore condominiale e chiunque deve essere tenuto a sopportare e a rispettare quelli che sono comunque le normative civili e legislative che lo regolamentano. Ecco, il vigile di condominio, lì dove entrerà in funzione, o comunque anche l'amministratore, dovrebbe essere però quasi sempre lì in condominio, magari abitarci per svolgere effettivamente la sua funzione, perché poi i problemi si verificano quasi sempre in assenza di testimoni o di un numero adeguato di testimoni, e poi rischiano di trascinarsi, se non c'è un rapporto magari buono, quantomeno accettabile, tra condomini o tra vicini. Certamente, ricordiamo innanzitutto che poco più di un anno fa è stato approvato un nuovo regolamento condominiale di cui ancora poco si conosce, poco viene rispettato, di cui comunque si individua nell'amministratore una figura centrale, ed è una figura che comunque dovrebbe tutelare anche i condomini di fronte a chi è moroso, perché se fino ad oggi chi non pagava poteva fare il furbetto e contare sul fatto che l'avrebbero fatto gli altri, oggi con le nuove regole chi non paga se ne assume la responsabilità e diventa e deve praticamente ed è la persona con cui poi l'impresa o l'amministratore va direttamente a rivalersi di fronte al giudice, cosa che invece prima venivano istituiti dei fondi straordinari e tante persone si rivolgevano anche proprio a noi dicendo: ma come, io devo pagare per chi non paga, quando c'è chi magari ha i soldi ma fa il furbetto. Ecco, premesso questo, e bisogna anche tenere presente che vivere in condominio comunque ci sono tante regole, ma soprattutto se si potrebbe avere un po' di educazione e magari un po' di sopportazione, tanti piccoli problemi si potrebbero risolvere. Per quanto riguarda la figura del vigile del condominio, sostanzialmente non crediamo che sia una figura che abbia dei compiti speciali rispetto ai compiti che avevano comunque i vigili, perché comunque è sempre bene sapere che prima che certe situazioni possano degenerare, una telefonata comunque può sempre, non dico allungare la vita, ma risolvere in via preventiva certe problematiche. E soprattutto ricordiamoci che in presenza di bambini magari è chiaro che purtroppo un po' più di pazienza per quanto riguarda i rumori sicuramente bisogna un po' avercela tutti. Al vostro sportello qual è la casistica più frequente che arriva e poi come vi ponete nei confronti dell'amministratore del condominio da cui vi arrivano le proteste? Allora, innanzitutto le problematiche più grosse le abbiamo quando arrivano i preventivi di spesa su certe opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché molte persone sono in difficoltà a doverle pagare e quindi si rifiutano durante l'assemblea di proporre o approvare, ma vengono costrette a subirle perché magari in minoranza. Poi altre problematiche, a parte rispetto a quelle dette, comunque normalmente si legano sempre ai pagamenti, sono riconducibili a, per esempio all'ascensore, alla pulizia delle scale, all'utilizzo, come ho detto prima, di spazi comuni, ma anche ci sono tutte quelle problematiche poi legate anche un po' al fatto che magari c'è chi sbatte la tovaglia e butta le briciole dalla parte di una persona, c'è chi stende i panni e magari l'altra persona è da fastidio, che si mette a fare la griglia in terrazza, cioè a volte ci sono anche problemini che magari si sembrano anche abbastanza divertenti da raccontare, ma che alla lunga certamente hanno messo a dura prova l'inquilino. Certamente nei panni dell'amministratore e nei panni delle persone che rimangono coinvolte noi di solito mandiamo sempre una diffida legale, oppure il socio ci chiede sempre che qualche esperto possa venire magari a partecipare agli ordini dei giorni promossi dall'assemblea condominiale, perché tante volte abbiamo riscontrato anche delle irregolarità nella gestione delle assemblee per effetto che magari la maggioranza doveva essere di 2/3 e non del 50%, doveva esserci l'unanimità e non i 2/3. Per cui ci è capitato in varie volte anche a dover annullare degli ordini del giorno proprio per vizi di forma che abbiamo riscontrato nella normale gestione dell'attività. E dall'altro, e da non da ultimo, come problematica ci sono che tante persone si rivolgono a noi che pretendono i bilanci dettagliati con le voci di spesa, dove ci sono ben evidenti le entrate e le uscite, invece queste voci qua non sono per nulla chiare o addirittura non vengono consegnate nel momento di effettuare i pagamenti. Insomma, vita difficile, complicata, ma basterebbe a volte semplicemente un po' di buon senso anche per risolvere i problemi. La settimana prossima altri due argomenti da affrontare insieme all'Adico di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.